Procedendo lentamente oltre il muro degli spiriti, fin nel cortile delle udienze, si fermò lì e frugò con gli occhi la distesa quadrata, sperando in un'altra visione di suo padre, ma c'erano solo i suonatori ingaggiati per l'occasione e il vecchio giardiniere in attesa, vicino a una guardiola vuota. L'intera famiglia era presso il defunto. «Vi prego, padrone», fece il giardiniere, «da questa parte». «Sì, certo». Talento coraggioso annuì distrattamente. Nell'ombra del salice non era forse lui? No, non c'era nessuno. È tardi, padrone, dobbiamo affrettarci. Ubbidì, seguendo il vecchio che lo guidò attraverso la seconda serie di porte aperte fino al grande cortile della casa dei Chang. Si fermò di nuovo, vedendo come in un sogno il tetto dolcemente inclinato e le 8 colonne vermiglie della sala degli antenati direttamente davanti a lui. Sentì di nuovo lo spirito di suo padre che lo chiamava ora da dietro le finestre chiuse. Si fece avanti per andargli incontro. La voce del vecchio giardiniere lo interruppe. Padrone, prego, da questa parte. Perdonami, vecchio mio, non sono in me, mi smarrisco qua dentro. È comprensibile, signore. Allora, prego, possiamo procedere fino al vostro alloggio? Sì, fammi strada. Attraverso il cancello della bottiglia, il giardino degli scacchi e la scuola, intorno al muro di marmo, improvvisamente Talento Coraggioso si fermò di nuovo. Non poteva sbagliarsi. Questo doveva essere il giardino del cipresso. Ma l'albero era scomparso. Un piccolo stagno con dei loti bloccava loro il cammino. Amico mio, per favore, aspetta. Che è successo qui? Il vecchio aprì la bocca come per spiegare, poi la chiuse e proseguì. Da questa parte, padrone, da questa parte. Talento coraggioso non insistette. Avrebbe dovuto evitare di chiederglielo. Soltanto i suoi fratelli potevano riferirgli un episodio disgraziato. Finalmente raggiunsero il suo alloggio. Sulla soglia si fermò. Qui nulla era mutato. L'eleganza sobria del periodo dei Ming, senza nessun ornamento ad eccezione dei vasi blu e bianchi nelle vetrine aperte, aveva ancora il potere di alleggerirgli il cuore. Silenziosamente il vecchio giardiniere gli mostrò la veste, il copricapo e le pantofole di canapa bianca per il lutto che erano disposte nella sua alcova. Poi, cerimoniosamente, si raddrizzò e rimase per un attimo con le mani lungo i fianchi prima di inchinarsi e prendere congedo. Mentre svuotava la valigia e indossava gli abiti da lutto, Talento Coraggioso ripeté per l'ennesima volta i rituali nella sua mente. Il vecchio giardiniere era stato insistente, nonostante la scarsa attenzione del suo padrone, come se potesse realmente dimenticare tali tradizioni, come se qualsiasi cinese potesse mai dimenticarle. Quando il salmodiare cominciò, egli era pronto. Attraverso il cancello della luna e il cancello del trifoglio, e oltrepassando il muro di marmo, percorse la strada fino alla scala degli antenati. Il lamento cresceva, riempiendo i cortili. Le porte scorrevoli erano aperte e si fermò sulla soglia per raddrizzarsi la veste e lisciarsi i capelli. Oltre 100 membri del clan, vestiti in tela da sacco bianca, con le pettinature e le code sfatte, le guance rasate, erano inginocchiati in fila sotto la volta intagliata, gli uomini a sinistra, le donne a destra. Lungo i lati, dozzine di uomini sacri, i monaci buddisti in tuniche color zafferano, i taoisti in nero. La bara, avvolta in seta rossa, era stata posata sopra un catafalco in fondo alla stanza, dietro all'altare. Suo padre, avvolto in un mantello in tessuto d'oro ricamato molto tempo prima, giaceva lì dal terzo giorno. Con reverenza, a testa china, Talento Coraggioso camminò verso l'altare finché raggiunse il tavolo di fronte al catafalco. Vi erano posati un ritratto di suo padre e una tavoletta di legno su cui era dipinto il suo nome. Fece 3 volte Q-tu e il salmodiare cessò. Apparve un servo con un vassoio di cibo. Usando il cero che già ardeva, Talento Coraggioso accese cerimoniosamente le candele e i bastoncini d'incenso, poi pose sul tavolo le ciotole di carne, verdura e frutta e un paio di bacchette per mangiare. Indietreggiò, 3 volte gridò «Oh, padre mio!», 3 volte fece «Cutù!». La testa premuta contro il pavimento sentì muoversi gli altri presenti nella stanza. Tutti gli uomini della casa dei Chang e tutte le donne fecero 3 volte Kutu, mentre i preti intonavano le preghiere per i morti, sottolineando le parole con cembali e campane. Le donne gemevano e singhiozzavano affinché il venerabile, ormai molto al di là delle sorgenti gialle, sentisse il loro dolore. Quando cadde il buio, i dolenti lasciarono la sala a uno, finché Talento Coraggioso rimase solo. Sempre inginocchiato, davanti alla bara, fece voto di portare onore alla casa di suo padre e di adempiere ai suoi doveri nel culto e nella venerazione degli antenati, come già suo padre aveva promesso al proprio e questi al suo. Quando nella sala e nell'animo del figlio vi fu pace, Talento Coraggioso si alzò e si diresse all'alloggio di sua madre. Ordinò alla serva, all'ingresso, di richiedere un'udienza per lui. Quasi subito fu fatto entrare nella sala privata delle udienze dove la vecchia, con le sue schiave al fianco, sedeva sulla sua sontuosa sedia di palissandro, i gigli dorati appoggiati su uno sgabello. La padrona e le serve erano fasciate in canapa bianca. Si era appena alzato dopo aver fatto cotù che sua madre cominciò a rimproverarlo. «Ci è voluto questo per farti tornare a casa. Non sei che un vagabondo, figlio mio!» I suoi occhi adoranti mascheravano il tono aspro della sua voce. Vieni subito, fammi vedere la tua brutta faccia. Ubbidì. Allora, madre mia? Per poco non sorrise. Lei almeno non sarebbe cambiata mai. Lei si protese a toccargli la guancia, poi ci ripensò e agitò un dito verso di lui. Figlio, fatti la coda. La gente crederà che tu sia stato sorpreso a vagabondare per i cortili interni. Le schiave ridacchiavano. Rapida come una vipera, la matriarca le squadrò a una, fulminandole. Diplomaticamente, Talento Coraggioso cambiò argomento. Voi, madre mia, avete un buon aspetto. Lei si voltò di nuovo verso di lui. Bugiardo! È da 7 settimane che non chiudo occhio, con centinaia di ospiti per il lutto da accudire e nutrire, e parenti lontani di cui non ho mai sentito parlare, tutti poveri naturalmente, che dovevano essere alloggiati e anche ricevere del denaro, per non parlare dei preti. Abbiamo dovuto ingaggiare altri 25 servitori. Se tu fossi stato qui a fare la tua parte, avrei un aspetto migliore. Lui chinò il capo. Perdonate questo figlio indegno, prometto di non trascurare mai più gli affari del clan. Lei allargò le braccia. Ahimè, non mi hai nemmeno dato un nipotino. Avevo avvertito tuo padre di non lasciarti andare dall'altra parte del globo senza prima trovarti una moglie. Ora, col lutto, non si può far nulla per altri 3 anni. E allora avrai 40 anni, un'età in cui qualsiasi figlio premuroso avrebbe dovuto offrirmi dei bisnipoti. La mia diletta madre ha ripreso il discorso esattamente da dove lo aveva lasciato 7 anni fa, pensò. Doveva cambiare ancora argomento. Onorata madre, è stato provveduto per il funerale di domani? La vecchia finse di non udirlo, fece cenno alle ragazze di farle vento. Egli ripeté la domanda più forte questa volta. Lei trasalì, poi rispose: Oh, non è detto che il funerale avvenga così presto. I geomanti consigliano di posticiparlo, forse di un anno. Ma secondo le usanze deve essere tenuto dopo 49 giorni. E questo era anche il desiderio del padre, voi lo ricordate, non è vero, madre mia? E da quando ti preoccupi delle usanze? Secondo le usanze dovrei già valutare le offerte di matrimonio portate da mediatori per mio nipote. Inoltre i geomanti sanno cosa è meglio fare. Poco dopo la tua partenza, alcuni diavoli stranieri vennero a scrutare le nostre terre attraverso vetri stregati ed eressero alti pali con fili. Ogni geomante in città mise in guardia i funzionari da tali pratiche, ma quelli non vollero dar retta. Ebbe un sospiro drammatico. Che accadde? Si fermò di nuovo aspettando la sua risposta, poiché lui tacque, rispose al posto suo. Solo quel che c'era da aspettarsi. Vi fu un'inondazione e il raccolto andò perduto. Non si devono offendere gli spiriti dei draghi. Non è forse giusto, ragazze? Le ragazze annuirono energicamente. Beh, non aveva senso mettere in discussione la fede di sua madre nella magia dei geomanti. Non sarebbe servito a niente, disse umilmente. Madre mia, come posso obiettare quando voi avete già riflettuto tanto? Un sorriso le affiorò appena dagli occhi, ma chiunque la conoscesse avrebbe capito che era molto compiaciuta. Frenato in un punto, il giocatore fa un'altra mossa. Un attimo dopo, Talento Coraggioso chiese: "E come stanno gli altri?" "Bene ora. Fino ad oggi non hanno fatto altro che correre avanti e indietro chiedendo di te." Era veramente così indifesa come sembrava? "Molte delle mie cugine sono in felice attesa?" "Oh, diverse, perlomeno due saranno dei maschi, lo capisco da come camminano." E qui fece la sua pausa. "Allora, madre, dovrò presto affittare una casa fuori delle mura della città, perché voi avete sempre detto che è di malaugurio mettere alla luce un figlio sotto un tetto dove dormono ancora i morti." Capì dall'espressione dei suoi occhi di aver vinto, ma comunque lei non avrebbe manifestato né il suo orgoglio per l'intelligenza del figlio né l'esasperazione per la propria sconfitta e ordinò semplicemente alla schiava di dire ai preti di prepararsi per il funerale. All'alba del giorno stabilito, il corteo uscì dai cortili, serpeggiando attraverso la città, fuori dalle porte occidentali, lungo le strade di campagna. Gli stendardi di condoglianza, la portantina del venerabile, il suo ombrello e il suo mantello, il suo ritratto, la sua tavoletta degli antenati, la gigantesca casa di seta che avvolgeva il catafalco, era retta da 18 monaci buddisti, 18 preti taoisti, 7 lama e 2 bande musicali al completo, più un centinaio di portatori di doni celesti, 10 persone adibite a scacciare gli spiriti maligni, 18 spadaccini a difesa dai diavoli ostili, 32 portatori di mantelli di broccato verde e cappelli con piume rosse. Tutti questi personaggi erano seguiti da Talento Coraggioso, il primo e l'unico figlio vivente della moglie anziana. Talento Sincero, l'unico figlio vivente della deceduta seconda moglie, e Talento Nobile, l'unico figlio vivente della terza moglie, davanti a tutti i maschi della famiglia che procedevano a piedi mentre le femmine stavano sui carri chiusi. E poi l'intero personale della famiglia, amici, funzionari e affittuari della casa dei Chang. La folla si assiepava lungo il percorso. I Coli sgranavano, increduli, gli occhi al corteo interminabile e i mercanti chinavano rispettosamente il capo davanti alla ricchezza dei Chang. Occhi di giovani donne e di ragazze scintillavano da dietro spiragli di finestre e di porte. Così mantenevano le distanze senza perdere lo spettacolo. Le vecchie chiacchieravano e ridacchiavano, indicando ora un personaggio del corteo, ora l'altro, tenendo distrattamente d'occhio i monelli che correvano intorno ai petardi scoppiettanti come falene attratte dalla luce. Dozzine di bottegai e di artigiani avevano eretto lungo la strada case di carte su piccoli altari fatti di tavoli. Di fronte a ciascuno c'era una stuoia bianca sulla quale i tre figli Chang si inginocchiavano per contraccambiare l'onore tributato al loro padre. Soltanto i mendicanti mancavano. Il clan aveva fatto una generosa offerta al capo della corporazione per evitare che la loro presenza macabra e odiosa guastasse la grande cerimonia. Metà della giornata passò prima che l'intera processione arrivasse al cimitero ancestrale, dove i Chang erano stati interrati una generazione dopo l'altra. Secondo i geomanti, questo terreno godeva di una perfetta corrispondenza fra il corso del fiume, l'inclinazione delle montagne, la curva della strada, gli spiriti degli alberi e i sentieri del sole e dei venti. Quando l'ultimo servo fu entrato, cadde un silenzio profondo, rotto quasi immediatamente dal lamento stridulo dei suonatori, mentre il canto funebre saliva al cielo. Gli uomini all'interno, le donne all'esterno sui loro carri, formarono un cerchio per assistere al trasferimento della bara dal catafalco alla buca profonda già preparata. Poi ciascun uomo a turno gettò una manciata di terra nella tomba e quando la bara fu coperta, i preti bruciarono i doni, innalzando ai cieli occidentali, per l'uso del defunto, cavalli, carri, maiali, galline, cibo, denaro, liuti, libri, scacchiere, case di cartapesta e altri generi di conforto della vita. Infine, quando tutti caddero in ginocchio, Talento Coraggioso, il primo figlio, tracciò il punto rosso sopra la tavoletta degli antenati che avrebbe adornato l'altare domestico, a significare che uno dei tre spiriti del venerabile sarebbe vissuto per sempre nella casa dei Chang, mentre il secondo riposava nella terra e il terzo era volato al paese delle ombre. Tenendo la tavoletta davanti a sé, il nuovo patriarca pronunciò l'elogio funebre in onore di suo padre. I miei peccati sono molti e odiosi, e per essi dovrei morire. Tuttavia la vita mi è stata risparmiata, gli dei mi hanno punito provocando la morte di mio padre. Egli è morto il quinto giorno della quinta luna di quest'anno sotto i tetti ancestrali. Io e i miei fratelli versiamo lacrime di sangue e pieghiamo a terra il nostro cuore addolorato. Mio padre è nato, eccetera, eccetera, eccetera. La voce di Talento Coraggioso era rauca quando ebbe finito di elogiare tutti i particolari della vita virtuosa del vecchio venerabile ed ebbe esortato i presenti a seguirne l'esempio. Noi dedichiamo le nostre vite a te, padre, come tu hai dedicato la tua alla casa dei Chang. Così terminò il soggiorno di un uomo in questo mondo. Così cominciò il suo ritorno alla terra degli antenati. La morte e il dovere erano innegabili. L'anno del drago sarebbe trascorso e l'anno del serpente quello del cavallo, e per tutto questo tempo i membri della casa dei Chang avrebbero pianto la morte del venerabile vecchio, vestendosi e nutrendosi semplicemente, rinunciando a ogni celebrazione di nascite e matrimoni, ritirandosi dalla vita pubblica e dagli incarichi ufficiali. Soltanto il giorno della pura luminosità nell'anno della pecora 1895, quando i discendenti si fossero radunati per ripulire le tombe ancestrali con rami di salice in fiore, i membri del clan sarebbero tornati nel mondo. 2. Le riforme. La tristezza del cinese. Ah, ciò di cui parlo è la tristezza di essere cinese. Non perché gli stranieri mi hanno insultato, non perché il mio compatriota mi ha oppresso. Egli non mi indica a dito, né mi picchia, né grida il mio nome e mi fa violenza. Egli passa davanti a me, canticchiando una melodia senza nome e se ne va. Ma quando io dormo a casa, egli, nella sua dimora fra le mura del giardino, comincia a far esplodere i petardi. Chon So Jen, 1910. Talento Coraggioso rabbrividì e affondò le mani nelle maniche, mentre avanzava lungo i sentieri deserti verso il cancello. Non era ancora troppo tardi per tornare indietro. Il suo braciere ardeva e un nuovo carico di libri era appena arrivato da Shanghai. Niente gli sarebbe stato più gradevole di un'intera mattinata passata a leggere. Ma il patriarca non poteva concedersi un simile lusso. Il cortile delle udienze era deserto, se non per i portatori ammucchiati contro il muro a fumare. Nell'aria gelida il loro respiro era bianco come il fumo delle sigarette. Vedendolo, saltarono in piedi e si inchinarono. Egli li salutò con un cenno del capo. Nessuno ricordava un simile freddo. Persino la vedova Wang non era al suo solito posto presso il muro degli spiriti, in attesa di riversare le sue lamentele contro questo o quel fittavolo della casa dei Chang. La povera donna non aveva figli e si sforzava di essere gli occhi e le orecchie del padrone, sperando così di acquistarsene i favori. Nessuno la prendeva seriamente. E lui, meno di tutti, tuttavia l'indomani doveva ricordarsi di mandare da lei Ciccia con una fetta di pancetta in cambio dell'uovo d'anatra che la vedova gli aveva portato con il rapporto di ieri. Sospirò. I proprietari terrieri non potevano permettersi la generosità dei loro fittavoli. Oggi, se non altro, mancando i soliti postulanti, avrebbe potuto incontrarsi col contadino Lee per la prima volta in 15 giorni e quindi adempiere le sue responsabilità in modo più gradevole. Lee era l'unico fittavolo che non si assumesse mai i privilegi del subalterno. Le sue parole e i suoi fatti erano sempre quel che sembravano. Non nascondevano mai intenti reconditi. Raccogliendo la veste, Talento Coraggioso salì sulla sua portantina. Il capo portatore si inchinò. Chiuse la porta, poi abbaiò un ordine al ragazzo di campagna che era stato appena ingaggiato. Il giovane, accanto al muro, si gettò per terra in un profondo cutù. Vi prego, padrone, non costringetemi. Farò qualsiasi altra cosa, vecchio zio, vi prego. Il portatore ripeté l'ordine con un ringhio. Il ragazzo continuava a premere il capo contro le pietre dell'acciottolato. Per delicatezza, Talento Coraggioso chiuse le tendine della portantina sorridendo tra sé. Ora il capo portatore, non sentendosi osservato, si sarebbe espresso liberamente. Vigliacco miserabile aborto di un babbuino imbecille! Le insultanti parole furono seguite dai rumori di una zuffa, poi da un ululato di dolore. Oi oi, lascia andare il mio codino, oi oi! Gli strilli del ragazzo erano punteggiate dalle imprecazioni del capo portatore, mentre con un certo affanno sospingeva il ragazzo al suo posto sul retro della portantina. Per un attimo ci fu un silenzio sinistro, poi una tosse squassante. Talento coraggioso cominciava a domandarsi se fosse il caso di intervenire, quando improvvisamente il ragazzo urlò di nuovo a pieni polmoni. Oh, vi prego, padrone! Non fatemi camminare di nuovo sotto dei panni stesi, questa volta mi succederà di sicuro qualcosa di terribile. Tu, progenie superstiziosa di escremento di cammello, questa è una casa grande e dotta, se vuoi lavorare qui, cammina diritto e non fare attenzione a quello che è appeso sopra. Oh, vi prego, vi prego! Ehi oh, ehi oh! Gridò il capo portatore mentre prendeva posto davanti. Ehi oh! Gemette il ragazzo. La portantina partì con un sobbalzo e oscillò intorno al muro degli spiriti. Il talento coraggioso sorrise. Ecco il progresso. Quanti mesi gli ci erano voluti per convincere il capo portatore che la presenza di pantaloni appesi sopra di lui non era di cattivo augurio? 5? 10? Un peccato che la sua dignità gli imponesse di non usare un linguaggio persuasivo come il suo. Se soltanto avesse potuto parlare in quei termini al tutore che aveva minacciato di andarsene piuttosto che insegnare matematica. Traffico di numeri, così l'aveva definita. Un lavoro da burocrati meschini e da mercanti mendaci. Talento coraggioso si immaginò il dotto insegnante a bocca aperta, finalmente costretto a rinunciare ai suoi distici pedanti e alle sue metafore oblique dopo un paio di epiteti di quel repertorio. Qualche espressione del genere durante la sua prossima lezione di igiene ai servi della cucina li avrebbe indotti perlomeno a pensare prima di sputare sulle palme delle mani e asciugarsele sul retro dei calzoni sporchi. Li immaginò in grembiuli immacolati a lavarsi energicamente le mani alle bacinelle che aveva installato più di 2 anni prima, usando finalmente il sapone che aveva insegnato loro a farsi, anziché venderlo sottobanco ai mercanti. Sempre sorridendo, si abbandonò sulla sua sedia, godendosi quella solitudine così rara. Gli ricordava la tranquillità della sua vita al di là dei mari. Là nessuno lo tormentava con dispute da risolvere o debiti da pagare, e si era abituato a vivere solo fra stranieri e ai ritmi dolci dell'inglese. Scosse la testa. Era a casa da 3 anni e ancora non riusciva ad abituarsi agli accenti striduli della sua lingua natale. Il cinese, con i suoi toni costantemente mutevoli e i monosillabi in staccato, aveva il timbro di tamburi, cembali, gong e campane. Era esclamativo per sua natura. Anche nel dialetto di Xuchao, il più dolce di tutti, la conversazione normale scivolava in un fortissimo e, benché egli di tanto in tanto potesse sottrarsi alla presenza dei visitatori, lasciando l'alloggio del patriarca per il suo amato studio Ming, non poteva sfuggire ai suoni quotidiani della vita fra i Chang. Forse non gli sarebbe dispiaciuto tanto se qualcuno avesse avuto qualcosa di interessante da dire, ma i suoi parenti, perlomeno durante questi anni di lutto, avevano avuto ben poco da fare se non deliziarsi con certi argomenti, godendo a ripetere all'infinito le stesse conversazioni. Passavano il tempo a discutere sull'abilità dei cuochi, sull'insolenza di un servo, sui modi villani dell'amico di un vicino. Chiacchiere. Soltanto chiacchiere. Ogni qualvolta era presente al pasto serale, nella sala da pranzo degli uomini, la conversazione prima o poi cadeva sugli stranieri. Cominciava il cugino anziano, scuotendo la testa disgustato. Ah, i barbari non sanno nulla in fatto di yen. Come possono sperare di diventare civilizzati? La settimana scorsa il fratello della nostra domestica è stato licenziato dal suo padrone inglese. Quello è il privilegio del padrone. Ma se si fosse comportato anche da uomo e non solo da barbaro, avrebbe fatto in modo che il ragazzo non perdesse la faccia lasciando che si dimettesse. Persino il lurido topo di fogna cinese non si accanisce sul nemico moribondo. Allora il terzo zio o il secondo cugino si stringevano nelle spalle dichiarando: Ma come potrebbero comportarsi diversamente quando i loro capi danno un così cattivo esempio? I ministri di Vittoria vendono oppio ai cinesi, mentre ne vietano l'uso in Inghilterra. Se la regina non è virtuosa, come può esserlo il suo popolo? Dopodiché, tutti lamentavano le perdite subite dalla Cina nelle guerre dell'oppio, l'incendio del palazzo d'estate, le concessioni, bla bla bla, tutte quante 56, una a una. Ah, se Talento Coraggioso ricordava loro l'assassinio di missionari inermi o l'editto imperiale che ordinava agli emissari stranieri di fare coucou davanti all'imperatore giallo, benché non si genuflettessero davanti al loro stesso re, quelli replicavano subito: chi ha chiesto loro di venire qui? L'imperatore Qianlong non li aveva forse avvertiti fin dall'inizio che né i loro dei né la loro presenza sarebbero stati graditi? Se tornassero a casa sotto i cieli ci sarebbe di nuovo l'armonia. E così la disputa andava avanti come uno sport senza fine. Tutti erano d'accordo che la Cina era come un frutto troppo maturo, trascurato e umiliato, destinato a cadere nelle bocche di sciacalli stranieri. Nessuno, tranne Talento Coraggioso e Talento Nobile, il primo e il terzo figlio, pensava che si potesse in qualche modo evitarlo. La litania era: povera Cina, poveri figli di Han, dietro il trono una concubina manciù dai piedi grossi e barbari dal naso grosso per tutto il celeste impero. Talento sincero non era di alcun aiuto il secondo figlio. Sì, diceva, chi ha chiesto loro di restare? Mettono in ridicolo la nostra antica cultura e i nostri saggi predicando le virtù di un falegname morto. Ridono delle tavolette dei nostri antenati, ma adorano un dio dai tre spiriti. Si fanno beffe di noi perché sacrifichiamo del cibo per commemorare i nostri defunti, eppure dichiarano che il pane è la carne di Dio e il vino è il suo sangue. Cannibali! I cinesi convertiti? Aia! 10 anni di lotte e 20 milioni di morti prima che la ribellione del Taiping, guidati dai cristiani, fosse soffocata. Se poi era Ciccia a servire, era lei ad avere sempre l'ultima parola. Qualsiasi tartaruga senza collo e senza occhi può vedere che sono spie, perché altrimenti vorrebbero restare dove non sono desiderati. Spie, nient'altro che spie. Se uno di quegli Yan Kuei mi dirà che andrò all'inferno, sputterò sulla sua faccia pallida e gli dirò: mostrami la strada. E tutti sghignazzavano come se la sentissero per la prima volta. All'inizio Talento Nobile era stato alleato di Talento Coraggioso in queste discussioni. Egli capiva l'esigenza di modernizzare e aveva grande rispetto per gli istruttori inglesi e tedeschi all'Accademia Militare. Ma negli ultimi mesi, poiché era sempre più evidente che il Giappone era deciso a prendersi la Corea, il più giovane dei fratelli era come ossessionato, insistendo perché lui gli permettesse di tornare alla sua nave, anche se il periodo di lutto non era terminato. Sono un soldato, devo essere in mare a combattere il nemico. A cosa servono le riforme? Se il paese è occupato. Essendo il patriarca, Talento Coraggioso aveva dovuto respingere queste richieste. Come poteva permettere che un membro della sua famiglia infrangesse la più sacra delle tradizioni? Tanto più che il clan non mancava mai di sottolineare che persino l'onorato antenato, il ministro dell'imperatore, si era ritirato a Shuqiao per la durata del lutto. Ora Talento Nobile, il terzo figlio, se ne stava silenzioso e distante durante le riunioni di famiglia, oppure si ritirava nel suo alloggio contando i giorni, senza più fingere il minimo interesse per gli sforzi che il patriarca faceva allo scopo di introdurre le riforme in casa sua. Che ne sa un soldato dell'agricoltura? Diceva, intendendo forse più appropriatamente, che ne sa uno studente ritornato dall'Occidente.